Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, dopo gli Shearwater per un problema tecnico abbiamo dovuto mettere uno stacchetto. Sono le 22:33 minuti, fra pochi secondi inizia ufficialmente questo appuntamento con Fabrizio Cammarata and the Second Grace, sarebbe la tua band, che però è qui presente in maniera ridotta, con Marco Petrigno. Benvenuti. Ciao a tutti, ciao. Ciao. Voi siete qui naturalmente per parlarci del disco Rooms, che è uscito da qualche mese, giusto? È uscito l'11 novembre qui in Italia. È un disco molto interessante, lo anticipo subito, e naturalmente alcune delle canzoni verranno suonate dal vivo in versione acustica, o unplugged, bisogna dire unplugged, che fa più... più professionale, e altri invece li ascolteremo dall'album, come quel primo brano che abbiamo selezionato, che è Alone and Alive, che credo sia il singolo. Sì, è stato fatto anche un video girato nella nostra città, che è di questo disco, Palermo. Che è Palermo, sì, noi palermitani doc. Dicevi, scusa? No, niente, insomma, è il singolo del disco, quindi è giusto anche che per presentare il disco, diciamo, si parta da questo brano, che è sicuramente uno di quelli più rappresentativi e più anche di rottura, magari, con quello che facevo anche negli anni passati, ecco, quindi è decisamente uno di quei pezzi che sicuramente rappresenta questa mia nuova passione, insomma, fatta tutta di contaminazione di generi, ecco, quindi sono molto contento che gli ascoltatori possano apprezzare questo brano. Sarà sicuramente così, anche perché chiaramente, essendo il singolo, anche il pezzo più immediato, diciamo, con un gancio melodico molto, molto potente. Allora, Alone and Alive, Fabrizio Cammarata and the Second Grace. Mine. Ooh, I'm alone and alive. Blue Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Questa era Alone and Alive, un brano che anche nella nostra classifica che trovate sul nostro sito www.bluradioveneto.it naturalmente. È un pezzo molto trascinante, ma che non saprei proprio definire, come è proprio, come hai detto prima, una contaminazione, con anche questa chitarra elettrica che entra sul finale abbastanza inaspettata. Sì, ci sono un po' di chitarre elettriche che entrano un po' come fossero una sezione archi un po' magrebina, se vogliamo, ecco. Quindi con quel feeling là, la cosa strana, sì, insomma, tu parlavi poco fa di un pezzo orecchiabile, comunque risulta essere uno dei pezzi più radiofonici del disco, ed è una cosa che a me sorprende molto, visto che si tratta di un pezzo che si regge tutto su due strumenti veramente strani. C'è un tres cubano, che è quello che sono io, che fa, insomma, scusa tutto... l'ignoranza, è una specie di chitarrina, diciamo, okay. più simile a un mandolino, ecco, come frequenza e come registro, e poi delle tabla indiane, quindi non c'è né basso né batteria, cosa che spesso sono un po' una condizione necessaria per un disco, per dei brani che devono andare in radio. Quindi devo dire che di questa cosa sono molto contento, perché non è la prima volta che mi succede che un mio brano venga un po' preso a singolo dalle radio, nonostante non suoni, ecco, come suonano normalmente i singoli. Ma sai, prima parlavamo dei REM, il loro più grande successo è un pezzo guidato dal mandolino e praticamente senza ritornello, per cui, cioè, Losing My Religion è un pezzo, sì, che teoricamente non aveva niente del singolo, poi in realtà ha venduto appunto quei 10 milioni di copie, per cui probabilmente fare le cose con la ricetta precostituita alla fine non rende. Ma parlando di chitarre, perché sulla copertina del disco c'è uno che sta cercando di rompere una chitarra in testa a una ragazza? Quella è una copertina che ho ideato io, ho fatto in collaborazione con un pittore mio conterraneo palermitano che si chiama Igor Scalisi Parminteri, e è una fotografia che ho fatto fare a un pittore proprio perché volevo una composizione molto pittorica. Chi vedrà questa copertina vedrà che sembra un po' un dipinto, insomma, 700-800, quindi perché volevo anche queste movenze, queste pose un po' enfatizzate, ecco, se vogliamo, ecco. Se tu noti, ci sono quattro coppie. Sì, vedo come quattro storie dietro. Ci sono quattro storie, ma che possono anche essere intese come quattro momenti diversi di un'unica storia. Quindi è un po' un'allegoria, se vogliamo, di alcuni momenti della vita, o di una relazione, o di anche di uno stato individuale, ecco. E quello là è quello più violento, no? Quello quasi, insomma... Scatto d'ira. Sì, sì. Invece Marco è in un angolo, una ragazza gli sta dando una bottiglia di vino. Marco se la passa bene, perché è una ragazza molto molto carina. Ecco il vino, tra l'altro, che poi è birra. Ah, beh sì, non si vede molto. Avete coperto anche l'etichetta per ragioni di pubblicità, immagino. Sulla mia chitarra. Bene, allora, direi che potete suonare un primo pezzo dal vivo, così anche i nostri ascoltatori vi sentono live, senza trucco, senza inganno, diciamo sempre. Noi appunto qui non ci sono post-produzioni né niente, sono i musicisti nella loro nudità, se vogliamo, dal punto di vista artistico. Sì, facciamo come primo questo pezzo, sempre di questo disco, che si chiama Down Down. È abbastanza diverso da quello che abbiamo appena sentito, ed è un sì, è molto semplice. Nel disco ha proprio un arrangiamento molto molto minimale, in cui ci sono degli archi molto belli. È un po' coeniano, se vogliamo, quindi da Leonard Cohen, per chi non avesse afferrato, è sicuramente una cosa, un esempio da seguire di grande peso, giustamente, per qualsiasi songwriter. Picking up the pieces of a whole life, down, down, I won't go. And you're moving to the outskirts of your backyard, down, down, I won't go down, down. I won't go down, down. I won't go. These are the cards that I hold. I put them down, down, down. I won't go. When you sit on your throne, I will laugh at your crown. Down, down. I won't go. Down, down. I won't go. Down, down. I won't go. Down, down. I won't go. But when you leave here, when you leave here, bottle the tickets for your debut. Down, down. I won't go. But can you see anybody else but me in the orchestra? Down, down. I won't go. Then you put it down. You throw away the mask, but please don't, 'cause nobody knows which is the face, which is the face. I won't go down, down. I won't go down, down. I won't go down, down. I won't go down, down. I won't go. But when you leave here, when you leave here, when you leave here, era Down Down, veramente molto molto bella, complimenti ragazzi, è venuta molto bene anche in questa versione così semplice, ed è un brano tratto da questo album Rooms, del quale abbiamo parlato finora, ma abbiamo parlato solo della copertina, perché in effetti è una copertina molto curata, si vede avrebbe meritato il vinile. La foto. Quello arriverà veramente presto, è questione di settimane, quindi fra un po' avremo anche quello. È sicuramente una di quelle copertine, di quei dischi che si godranno molto di più in quella forma, non solo da un punto di vista grafico, ma anche da un punto di vista audio. Sì, questo sono curioso anche di sentire la differenza. Ma, parliamo della parte, diciamo, tecnica del disco, che è un album diciamo di caratura internazionale, perché a parte la scelta di cantare in inglese, ma c'è un produttore americano, J.D. Foster, Vedo che il disco è stato realizzato in Sicilia e a Brooklyn, a Portland e a Tucson, Arizona. Sì. Quindi ha girato il mondo praticamente. Decisamente sì, ed è uno di quei casi in cui veramente meno della metà del lavoro, soprattutto in fase di registrazione, è stato realizzato con GD in Sicilia, quindi un po' a casa nostra, anche per fargli respirare qual era l'aria di casa nostra. E cercare di fargli capire anche come potesse essere che un progetto in cui è usata una lingua così internazionale come l'inglese, che è la sua lingua madre, in qualche modo poteva anche nutrirsi di quell'ambiente là. Quindi una cosa che ci tengo sempre a sottolineare io è che non è che in qualche modo rinnego la mia provenienza, ma chi veramente ascolta la musica che faccio troverà, riuscirà a ravvisare veramente tanto di quello che è la mia vita in quel posto là, in Sicilia, a Palermo, nella città di Palermo. E quindi ci tenevo che lui fosse il primo, proprio lavorando con me, a capire questo tipo di influenze. Dopodiché siamo andati a finire le registrazioni a New York e poi abbiamo fatto il missaggio a Portland, Oregon, in uno studio in cui, tra l'altro, lo studio in cui lavorava, cioè ha fatto tanti dischi Elliott Smith, quindi insomma c'era pure il suo pianoforte, quindi decisamente anche in una situazione in cui tanta ispirazione veniva anche dall'aria che trasudava da quelle pareti là, ecco. E poi abbiamo avuto delle importanti collaborazioni, alcune di queste sono arrivate proprio da Tucson, Arizona, che è la casa dei Calexico, e quindi è là si inserisce tutto il discorso su Joey Barnes e il grande onore che mi ha reso con questa collaborazione in due brani. Sì, vedo che Joey Barnes suona il basso, violoncello, fisarmonica e canta anche. Infatti i musicisti sono parecchi. Sì. E ci sono dentro praticamente buona parte della tua vecchia, dei Second Grace, però sono mescolati agli altri, cioè come funziona la faccenda? Sì, ci sono tutti, quelli del vecchio disco, quindi della vecchia band di Second Grace, ci sono tutti. Assieme a loro, più o meno equiparati anche in termini di partecipazione, ci sono un sacco di altre persone che vedi scritte là nei credits, proprio perché è successa una cosa con i Second Grace, che a un certo punto si è deciso anche di comune accordo, ci tengo a dirlo perché comunque con loro ho conservato un gran rapporto di amicizia e di collaborazione professionale che perdura fino a ora. È successo che questo progetto è diventato una cosa cantautoriale, una cosa totalmente mia, motivo per il quale insomma ho deciso anche di fare un disco del genere, di investire anche di giocarmi veramente un sacco di carte, sia emozionali che di energie proprio mie, nel fare qualcosa che mi rappresentasse completamente, che non fosse un progetto. Poi quando viene detto progetto per dire qualcosa di musicale, a me un po' fa paura, diciamo. Sono un cantautore, per cui quello che faccio è mettere in musica la mia interiorità. In quel modo là sono riuscito a farlo, ecco, senza pensare che dovessi in qualche modo rispettare uno stile o un suono di band. Quindi quello che fanno questi musicisti bravissimi assieme a tanti altri che vedi lì elencati è stato proprio di seguire me in questo viaggio, ecco, che anzitutto è un viaggio nella mia interiorità, oltre che un viaggio anche esteriore, visto tutte le influenze, i pezzi vari, insomma, che sono. Bene, ci ascoltiamo un altro brano tratto dall'album, si intitola Paul Kitoto. Paul Kitoto, questo è uno dei pezzi. Paul Kitoto, non è inglese quello che stavo chiedendo, appunto, cosa potesse voler dire. Quella è una. Io scrivo sempre un sacco di ninna nanne. Questa è una ninna nanna un po' macabra, però sì. Paul Kitoto è in lingua swahili, vuol dire povero ragazzo. E quindi non è siciliano. Assolutamente no. È uno dei brani in cui suona Joey Barnes de Calexico, qua suona il basso e canta pure, a un certo punto si può distinguere chiaramente il suo apporto vocale. Okay. Bene, allora ci ascoltiamo questa Paul Kitoto. maybe two or three more. And Saturday's gone on your lonely stool with your secret twin. Sing good night, cruel night. Take what you want from me. It could be tomorrow at the latest, and Saturday's gone. You cannot hide all your life behind words only you can understand. If it worked out fine once, then lucky you. Pole, pole, pole. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Allora, questa era Pole Kitoto. Abbiamo anche imparato un po' di swahili. Uniamo l'utile al dilettevole. Sono le 22:58 minuti, ricordo ai nostri ascoltatori che siamo qui in studio con Fabrizio Camarata e Marco Petrigno, che sono qui per presentare il disco appunto di Fabrizio Camarata and the Second Grace, che si intitola Rooms. Questo brano che abbiamo appena ascoltato è appunto uno degli 11 pezzi che lo 10 pezzi che lo compongono, ho visto male. E la scelta di cantare in inglese è artistica, è un discorso di voler andare subito a cercare anche mercati fuori dall'Italia. La scelta di cantare in inglese è una scelta. Te l'hai chiesto già mille volte, lo so. Sì, sì, sì. E io darò sempre la stessa risposta. Spero bene. No, la scelta di cantare in inglese è una scelta, se è una scelta quella che fai quando a 10 anni cominci ad imbracciare la chitarra invece di suonare il piano. E quindi è una cosa che viene da tanto lontano. Per questo secondo me non è una scelta, è una cosa molto istintiva e molto che viene sì ovviamente da ciò che ascolti quando sei in tenera età, quindi da quello che ascolti quando negli anni della tua formazione primaria, quindi veramente da quando dall'infanzia passi a un'adolescenza e quindi cominci ad ascoltare per la prima volta. Per me è capitato Bob Dylan, come gli Stones, i Led Zeppelin, tutta questa gente qua. Quindi sì, tendo a non preoccuparmi mai di questo aspetto, proprio perché, come ti dicevo, è molto meno importante di quello che sembra, ed è una cosa che veramente è come lo strumento che scegli di suonare. Io ho scelto di suonare questo strumento, ho scelto di suonare la chitarra, e ho scelto di cantare in inglese, ma non mi ricordo il momento in cui l'ho fatto, e probabilmente non c'è un vero e proprio motivo, è una cosa che è venuta da sé. E dal disco precedente, The Second Grace, è passato un arco di tempo piuttosto lungo. Sì, sono invecchiato parecchio. Beh, io no, invece. Parliamo di 4 anni e mezzo circa, una cosa del genere. Sì, forse anche quasi 5, perché quel disco è uscito sì, nel maggio del 2007. Quindi sì, è passato. Vabbè, novembre 2011, sì, insomma. Come mai così tanto tempo? Hai avuto altre cose da fare? O è stata una questione tua che hai voluto pensare molto al disco? Immagino che in questi 4 anni tu abbia scritto più di 10 canzoni. Allora, questa cosa richiede una risposta un po' lunga. Allora, sì, in verità dopo l'uscita del primo disco nel 2007 sono stato veramente tanto impegnato con tutto quello che ne è conseguito, quindi un sacco di tournée in Italia, soprattutto all'estero. Ho cominciato a lavorare all'estero dopo che non avevo mai fatto realmente tanti concerti all'estero, invece poi è diventato molto più importante e impegnativo per me fare le prime tournée in America, negli Stati Uniti e in Europa fondamentalmente. In Europa un po' dovunque, Francia, Inghilterra, Germania soprattutto, Stati Uniti un sacco di tournée. E quindi sì, insomma, il tempo se ne va quando è così. Devo dire una cosa, che contrariamente magari a quello che può richiedere il nostro tempo di oggi, ho come un certo senso di responsabilità nei confronti di quello che l'artista fa e che rilascia al pubblico per lasciarlo proprio, diciamo, ai posteri. E quindi ci penso sempre più di 2 volte quando devo consegnare qualche cosa al pubblico. Sono molto severo con me stesso, e quel disco di là, questo disco Rooms, è il frutto di una continua selezione che io ho fatto in un tempo abbastanza lungo, proprio per scegliere tutto ciò che veramente mi rappresentava e che al contempo pensavo potesse avere un senso per gli altri, che poi alla fine è quello che probabilmente, cioè, ci sono tante idee, ecco, su quello che dovrebbe, su quello che è il ruolo dell'artista. Per me l'artista propriamente detto è qualcuno che esprime se stesso e che in qualche modo riesce a far coincidere questa espressione con un bisogno altrui di ricevere questa espressione. Ora è un po' difficile forse come l'ho detto, però è quello che penso veramente. Quindi sicuramente tutto questo tempo che è passato è stato dovuto anche a questo mio senso di responsabilità nei confronti di quest'opera che è un disco, cioè del fare un disco. Ecco, io vedo un sacco di artisti che fanno dischi un po' in maniera anche un po' distratta, no? Quasi meccanica. Sì. È la cosa più che mi dà più fastidio, è che spesso fastidio, insomma, che non condivido, è che spesso sono si tende a fare del lavoro discografico qualcosa di secondario rispetto al business vero e proprio, in un mondo in cui ovviamente non si vendono più dischi, al business vero e proprio, che è quello della musica dal vivo. Quindi io faccio un disco per fare concerti, non faccio concerti per promuovere un disco. E io sono contrario a tutta questa cosa. Per me il disco è ancora quella cosa che resta, e che ha il potere di restare per l'eternità, come un libro, come un buon libro, come una bella opera d'arte, un quadro, e quindi come un bel film. E quindi ho seguito delle regole che forse sono un po' anacronistiche in questo senso, ma ho dato assoluta priorità alla qualità del disco, senza preoccuparmi dei tempi, ecco. Bene, la risposta è stata lunga, come avevi annunciato, e per cui direi che adesso puoi anche suonarci qualcosa, credo che sia il giusto coronamento di questo discorso. Cosa ci canti? Faccio un pezzo che si chiama All I Know, è il pezzo che apre il disco. È decisamente una cosa un po' più spensierata, se vogliamo, è uno di quelle... Bob Dylan diceva sempre che spesso gli capitava di scrivere delle non-love songs, quindi delle canzoni non d'amore, come Don't Think Twice, It's Alright e tante altre. Ecco, questa è la mia non-love song. Bene, allora il brano si intitola All I Know, e dal vivo Fabrizio Cammarata qui su Blu Radio Veneto. For another day to pass, I just can't sit here all alone, 'cause I've grown too old, knowing you still won't come. Oh no, you still won't come. When the same sound was coming from you, I was there with the same face you used to put on sale unaware. Like you said, it ain't fair, but you know life is tough, it's gonna let us down. All I know is I'll get in tune, April, May, maybe June, but still without you. Be waiting for another day to pass, just can sit here at the station with all my stuff, and if you keep your eyes stuck, oh no, you hear another man cry. You know the same sound coming from me was a trap on the way to being the angel at your side or on your back. Like you said, it ain't fair, but you know life is tough, it's gonna let us down. All I know is I'll get in tune, April, May, maybe June, but still without you. The blame is mine. I used to touch your hands when they burned like a flame. Like you said, it ain't fair, but you know life is tough, it's gonna let us down. All I know is I'll get April, May, maybe June, but still without you. Like you said, it ain't fair, but you know life is tough, and I should never say all I know. È indubbiamente spensierata, mi dà l'idea di una di quelle canzoni che la gente cantava una volta andando in bicicletta, no? Sì, se vogliamo, poi si parla sempre di amori infranti, di cuori infranti, per cui Alla fine, ecco, si ride per non piangere. Questo lo faccio spesso. Perché prima hai detto che il disco riflette le tue esperienze personali, per cui viene da pensare così, che non sia così spensierata allora quello che c'è alla base di questa canzone. No, ma amo scrivere anche canzoni che non hanno una corrispondenza diretta fra il mood più o meno allegro della musica e quello che c'è dietro, l'esperienza o il testo che ci sta dietro. Quindi dico sempre che è una delle grandi lezioni che ci ha dato probabilmente uno fra i 5 cantautori più grandi del secolo passato, che è Bob Marley, che riusciva a parlare di cose serie o di cose veramente tristi comunque con un mood molto allegro, e che in qualche modo sì, faceva trasparire anche un po' l'ottimismo di chi vuole superare una situazione difficile. E questo è un po' quello che faccio io ogni tanto con le mie canzoni. A proposito, non ti ho chiesto prima perché hai usato una parola in Swahili per il titolo della canzone. Questo non me lo ricordo. Potrei raccontarti una cosa, cioè, inventarmi la storia. Degli appunti. Non ricordo. No, perché non è che lo Swahili sia una lingua che si senta parlare per strada. È vero, no. Ho tante connessioni con questa lingua grazie a persone che conosco. Però, ecco, sì, devo dire che non mi ricordo. Potrei inventarmi, come ti dicevo, tanti aneddoti su queste cose o sulle mie canzoni. Che c'è una cosa strana che succede con le mie canzoni, che spesso non ricordo come sono nate o come le ho scritte, qual è stato il processo che mi ha portato alla stesura finale della canzone. Questa è una cosa che psicologicamente chissà da dove deriva. Non è che tu sei smemorato in generale, ti dimentichi queste cose qua, sì, sì, le chiavi della macchina le trovi, insomma. Diciamo, quelle le perdo ogni tanto pure, infatti poi ho deciso di non avere macchina, adesso non perdo più le chiavi della macchina, perdo le chiavi di casa. Però no. Il prossimo passo è essere un senza tetto, ma non mi sembra. Oddio, speriamo proprio di no. Però sì, insomma, succede questa cosa, chissà, forse perché a me succede quello che succede forse a tanti altri artisti in altre discipline, cioè quello di, nel momento in cui finisci qualcosa, te ne distacchi completamente, perché diventa degli altri, diventa del pubblico che l'ascolta, e tu sei semplicemente un mezzo per quella canzone là. Un'antenna. Esattamente, sì, quindi poi non mi ricordo più come sono nate le cose. Peraltro hai detto che la copertina del disco è stata fatta davanti a casa tua, quindi immagino che non parcheggiassi la macchina da sotto casa. No, assolutamente no. È un vicolo quasi, quasi veneziano. Non c'entrerebbe nemmeno la macchina in quel vicolo, è un vicolo della zona della Bucciria, che è uno dei mercati di Palermo, insomma, più caratteristici, e che negli ultimi anni è diventato anche un po' un ricettacolo di artisti e di gente molto molto interessante, quindi insomma mi è piaciuto anche andare a vivere in questa zona in cui mi trovo benissimo, perché veramente c'è un'atmosfera impagabile. Ci sono stato, in effetti è un posto incredibile. Ci ascoltiamo un altro estratto dall'album che ricordo si intitola Rooms. Il brano è Aberdeen Lane. Aberdeen è una città in Scozia, se non mi ricordo male. Sì, è veramente complicato tutto quello che c'è dietro questo pezzo, perché è come se, ecco, detto in due parole, è come se una vicenda personale, una vicenda di cuore, quindi se vogliamo anche un po' come quelle di tanti, si incrociasse nello stesso momento storico con una vicenda storica invece incredibilmente grande e brutta, come può essere l'11 settembre. È una canzone che ho scritto quando avevo appunto 19 anni, è successa quella cosa là, e nello stesso momento, in contemporanea, io soffrivo per delle mie pene d'amore. E quindi, cioè, scusa, non l'ho scritta in quel momento là, però si riferisce a quel periodo là, e quindi c'è questa sorta di forse senso di colpa, di dire ma com'è che io mi sto sentendo male perché questa ragazza non mi vuole più, nel mentre ci sono 3.000 persone che sono morte. Quindi è un po' un senso di colpa, come se l'uomo non riuscisse certe volte proprio a distaccarsi dalle piccole cose che lo fanno soffrire, nonostante fuori stia succedendo l'inferno. insomma, però è un tema molto è complessa come cosa, molto ampio, diciamo. La canzone comunque è una delle più belle dell'album, secondo me veramente un brano eccellente, si intitola Aberdeen Lane e adesso ce lo ascoltiamo. On the trail of many wise men, I said that I would endure the fall of the Western Wall. In those days, the delight was enough to miss the call of the Americans' war. Another killing. Allora, questa era Aberdeen Lane, con un arrangiamento estremamente ricco e complesso. Grosso. Ecco, mi chiedevo il motivo della scelta di un produttore americano. Cioè, tu sei partito con l'idea, voglio un produttore straniero perché hanno un suono diverso, o semplicemente mi piace lui, mi piace J.D. Foster e quindi... No, cioè, partiamoci dal discorso che penso che ci siano dei posti che naturalmente per la loro storia generano personaggi e risorse che sono più portati a certo tipo di lavoro, e quindi se io fossi americano e volessi un cuoco probabilmente sceglierei un italiano. Allora, se io sono italiano e voglio fare un bel disco, so che la più grande tradizione di produttori e di gente che capisce di suono e di tutta una serie di cose, non solo di produzione artistica, ma anche di come usare un certo microfono del 56 e tu, di come mettere mano su tutte queste manopole di sti aggeggi valvolari come compressori e preamplificatori, sicuramente, ecco, là è proprio la culla da cui tutto questo è nato. Ecco, quindi partiamoci da questo discorso qua, che è un po' generale. Poi ovviamente nel momento in cui mi sono trovato a dover scegliere assieme al mio management chi dovesse seguirmi in questa avventura, quello che ho fatto è stato semplicemente prendere i dischi che mi piacevano di più e guardare i credits, no? E quindi chi aveva prodotto questo disco, chi ne aveva prodotto quest'altro. E allora quello che è uscito fuori è che JD aveva fatto un bel po' di roba che mi piaceva molto, soprattutto per quanto riguarda il lavoro fatto con Mark Ribo, che è un chitarrista enorme, insomma, nonché chitarrista di Tom Waits storico, o con i Calexico, o con Patty Griffin, quindi tutta questa serie di cose qua. E quindi, insomma, da lì a contattarlo e a riuscire a lavorare con lui, il passo è stato abbastanza breve. Poi, conoscendo, adesso non conosco J.D. Foster, ma conosco parecchi americani, quando gli dici, beh, potresti venire qua in Sicilia per un po', quello è un argomento che di solito li attira parecchio, sì, insomma, perché ora l'Italia... Ora che sono veramente un amico intimo di J.D. Foster, posso dirti che lui ormai è stato preso dalla saudade siciliana, quindi veramente... è disposto a venire spesso veramente per qualsiasi motivo, anche il più futile. Lui, cioè, da accordare una chitarra. Sì. Quindi non dice altro. Ecco, lui, probabilmente lui si trasferirebbe subito a Palermo. Ecco. Adesso, diciamo, con tutti i problemi che ha l'Italia, che ha Palermo, ma che hanno anche altri posti, appunto, quando si parla poi con gli stranieri si capisce che abbiamo delle carte da giocarci, insomma, al di là, sì, della banalità, il sole e la pizza, ecco, ma non è che questi luoghi comuni nascano dal nulla. Cioè, se tutti dicono che gli svizzeri sono puntuali è perché sono davvero puntuali, insomma, ma se tanti dicono che in Italia si sta bene è perché in effetti ci sono parecchie ragioni per star bene. Quindi immagino, oltretutto, sì, che per lui sia stato un bel punto di equilibrio tra un lavoro che sono sicuro gli sarà anche piaciuto dal punto di vista proprio della soddisfazione personale, ma anche una vacanza, per cui... Sì, diciamo, è stato un lavoro molto, molto duro, quindi di stare in vacanza non c'è stata praticamente la possibilità per lui. Però quello che sicuramente gli è piaciuto è stato questa atmosfera. Ha lavorato solo in Sicilia con me e poi, vabbè, poi siamo andati in America, però in Italia lui con me ha lavorato soltanto in Sicilia, quindi ha percepito questa diversa concezione del tempo, questi rapporti personali che noi intrecciamo fra di noi, musicisti e amici, che sono veramente qualcosa di più vicino a un sentire familiare che a un sentirsi amici o colleghi di qualcuno. E quindi questa cosa lo ha proprio rapito, perché non è una cosa proprio comune che c'è dovunque. La Sicilia ha storia da questo punto di vista ormai, avete creato un giro di collaborazioni di musicisti... Che sì, è veramente efficace. Nonostante, scusa se ti ho interrotto. Nonostante non si possa negare che effettivamente siamo un po' fuori dal mondo da un punto di vista soprattutto logistico e geografico, fa un po' rabbia pensare che magari una volta era proprio il centro del mondo, tanti anni fa, nel Medioevo, ai tempi di Federico II, che proprio a Palermo fece la sua capitale. E in un momento in cui in Europa praticamente c'era il buio totale medievale, la Sicilia proprio era florida, era bella, aveva questa commistione di culture, quella araba e quella norman. Di questa cosa purtroppo non abbiamo conservato nulla, di questo orgoglio e di questa potenzialità. È rimasta tutta forse nel nostro sentire, nel nostro fare musica, nel nostro fare arte. Sarebbe bello che questa cosa ogni tanto si sposasse anche con cose un po' più concrete che ci aiutassero a continuare a farlo, questo lavoro, nel meglio. E quindi, insomma, sì, Normani ha lasciato anche altro, perché tu hai gli occhi azzurri e sei, non dico biondo, ma insomma, potresti passare più per uno del, del nord che... Sì, sì, ma, vabbè, ma giù da noi ce ne sono tanti come, come me. Lo so, lo so. È il momento di riprendere in mano, non l'avete mai messa giù, comunque è il momento di ridare lavoro alle chitarre. E ci annunci il brano? Sì, questo è un altro brano sempre dal disco nuovo, si chiama Me and the Rain. Qua ci ricolleghiamo sempre al mio rapporto con la città, che come, come potrà vedere chi ascolta bene questo disco, è continuo in qualsiasi cosa che io dico. In nella fattispecie questo pezzo, Me and the Rain, quindi io e la pioggia, è stato scritto proprio in uno di quei momenti in cui Palermo si fa incredibilmente piovosa. Negli ultimi 10 anni Palermo è diventata incredibilmente piovosa, mentre io quando ero piccolo vi abbiamo mandato la pioggia che non abbiamo più noi. Sì, sì, infatti, cioè, guarda, la stagione bella dura tantissimi, parecchi mesi, però ecco, ci sono quei 3 mesi d'inverno in cui a Palermo non smette quasi di piovere, insomma, quindi è una cosa a cui non siamo abituati noi siciliani, devo dire, noi palermitani meno che mai. Sono io ricordo basito. Quando ero piccolo c'erano problemi, c'erano problemi di siccità infiniti, cioè, arrivava l'acqua nelle case tipo, 2 volte a settimana, quindi tanti disagi, tante cose. Questa pioggia non ci siamo tanto abituati e quindi ci crea questa piccola, questo piccolo alone di nostalgia e di malinconia, voglio dire. E questa canzone nasce proprio da uno di quei momenti, di quei momenti là. Si chiama Me and the Rain. I know a brilliant speech is not my best. Oh, I know a brilliant speech is not my best. It's easy in these days to raise a castle, but in a minute it's too late. I'll be born bastard. And this is what I'd pay to say a word. I take my small self and I'll see you someday. I feel this guilt is digging empty. Our shallow grave inside me, just a landfill. And I wish this telephone was a radio. Frequencies and waves set to let your mind go. But I've never really got through this before. I take my small self and ready to go. Now it's just me and the rain, me and the rain. Oh, it's just me and the rain. Oh. Cause sometimes far behind is still too close. Oh, cause sometimes far behind is still too clear. I pick up some memories of Maria, naked in the backseat of my Fiat. And this is what it's like to be a shadow. I take my small self and just disappear. And now it's just me and the rain, me and the rain. Oh, it's just me and the rain. Oh, just the shade of what I imagine. But I never understood this lies of happiness, so I keep my small self in an invisible room. And now it's just me and the rain, me and the rain. Oh, it's just me and the rain. Thank you. Me and the Rain erano Fabrizio Camarata e Marco Petrigno qui dal vivo su Blu Radio Veneto. E, prima abbiamo fatto la lezione di Swahili, adesso abbiamo scoperto che a Palermo piove molto. Che piove tanto proprio. È una cosa che mi lascia. Vera... Non siamo preparati per questa cosa. Immagino veramente, ma sì, ma il tempo è cambiato anche qua. Noi non abbiamo quasi più la nebbia, pensate un po', quindi a Palermo piove. A questo punto basta che venga bel tempo perenne a Londra e abbiamo cambiato, rovesciato il mondo sotto sopra. E, adesso ho qui in mano il primo disco che era a nome di The Second Grace, anche se vedo che le canzoni le avevi scritte comunque tutte tu. Sì, sì, era comunque un progetto cantautoriale, però... tutta la gestione, gli arrangiamenti erano una cosa più da band, quindi l'apporto delle altre tre persone era proprio 25% l'uno in qualche modo, ecco. Però i pezzi li scrivevo io, sì. E vedo anche a livello produttivo era un disco molto più casereccio, non nel senso negativo del termine, però vedo fatto con un produttore locale e In verità l'abbiamo prodotto noi. Sì, quindi siamo andati a registrarlo in uno studio lì in Sicilia, vicino Catania, a Scordia, però sì, la produzione artistica è tutta nostra, quindi quello che si sente in quel disco è tutta farina del nostro sacco, devo dire che comunque è una cosa che ancora mi lascia abbastanza contento e soddisfatto. Vedo siete andati a Milano per il mastering, con sì. La cosa più esotica era Milano rispetto a Tucson e Portland, insomma. Parliamo di quattro persone che ancora non per le quali insomma andare a suonare all'estero sembrava veramente un miraggio. Di lì a poco saremmo andati a fare una tournée in America che ci avrebbe cambiato la vita a tutti. Quindi. Che non è facile, in effetti, i gruppi italiani che siano andati a suonare negli Stati Uniti ce ne sono veramente pochi, è un mercato un po' difficile. D'altra parte c'è da dire che, come avevi detto anche tu prima, non è che loro abbiano mancanza di musicisti da quelle parti. Assolutamente no, diciamo. Però magari può essere interessante per un americano aprire un po' le orecchie per qualcosa che sì, viene dall'altra parte del mondo. Il punto è proporgli qualcosa che non somigli a quello che loro hanno già a casa loro e che quindi insomma dia loro l'impressione di avere qualcosa di con un valore aggiunto. E quello che è il mio obiettivo e quello che io desidero è proprio che quello di fare una musica che sia cantata in inglese o in qualsiasi altra lingua. In questo momento uso l'inglese. Esatto. In questo momento uso l'inglese, però che una musica che in qualche modo la gente ascolti e dice sì, questo non è americano, questo lo sento che c'è della Sicilia dietro questa cosa. E se devo essere sincero, i complimenti che più apprezzo sono quelli che vanno verso questa direzione, verso il tu non potresti mai essere americano, ma mi piace tantissimo. Che è una cosa che ogni tanto mi dicono e che mi riempie d'orgoglio, quindi... E allora da questo album che si intitola semplicemente Second Grace ci ascoltiamo un brano intitolato Like a Juliet. Now it goes like this, and if this isn't clear, well I want you to leave, okay? Ain't no worse than that, so if I am not rude, can you make it like Jude? Well, I see it's not up to you, the creation of this harmony. You don't even know the words it takes to say that as long as you be loving like a Juliet, I was always there. Like a Juliet, I was always there. Like a Juliet, I was always there. For real, my dear, you just can't set my rear view mirror, I fear. No more all time enemies like Perseus or Medusa, just cause I chose ya. I could never see without you the ghost of this elegy. That's exactly what I meant when I said lend your eyes to me, staring like a Juliet at Romeo who saints. Like that night we were in your car. You said I'll be what you are. I said beware of that car. But the sun had already shown up. Tired of hearing your black prophecy. What had never appeared in your ball was that you'd never changed me for real. Acting like a Juliet spilling her tears. Like a Juliet spilling her tears. Like a Juliet spilling her stop biting these words made of sparkling unowned jealousy. You could even show me all the beauty you want me to see. Sounding like a Juliet dying in rhymes. Like a Juliet dying in rhymes. Like a Juliet dying in rhymes. Like a Juliet dying in rhymes. Oh, but look, there is no Romeo dying. Blu Radio Veneto. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. E questa era Like Juliet. Non so, riascoltando questo disco, lo riascolti ogni tanto? O... No, infatti mi sono tenuto, ho tenuto le cuffie messe mentre l'ho mandato, perché sono poche occasioni, diciamo, in cui mi capita di farlo. Non lo faccio quasi mai di mia spontanea volontà, e quando capita così in radio lo faccio sempre con molto piacere. Però continui a cantare dal vivo, immagino, delle canzoni? Pochissima roba. Questa canzone, per esempio, non la faccio più da anni. Però mi piace, quindi ho voluto riascoltarla anche io, così penso che sia... Come mai questa scelta? No, non è una scelta, è un... Oddio, è un po'... Sono molto dinamico io su queste cose, nel senso, a un certo punto se non sento più che qualcosa mi rappresenta appieno, tendo a metterla un po' da parte. Quindi ci sono giusto un paio di cose di quel disco che io continuo a fare dal vivo, perché le sento molto. Però ecco, se io in quel momento mi sento troppo diverso da quel modo di sentire là, e sento che non c'è una reale possibilità naturale di reinterpretare, anche di rinnovare o di reinventare quei brani secondo lo stato in cui sono in quel momento, non lo faccio. Prima avevo accennato, in questi 4 anni tu hai scritto parecchi pezzi. Sei uno di quelli che scrivono e mettono nel cassetto, oppure al momento di fare il disco ti metti e riattacchi insieme tutto quello che hai in testa e scrivi le canzoni che servono per il disco? Prendo sempre appunti, poi al momento di fare il disco esce fuori l'anima un po' più razionale di me, e quindi quella che mette insieme tutte quelle cose che sono un po' messe lì alla rinfusa dentro il cassetto. Non sono uno che scrive tantissimo, devo dire, quindi già faccio una grande selezione proprio a monte. Sì, a monte. Quindi sì, insomma. A proposito di monte, nel disco c'è una canzone che si chiama Mount Pellegrino, sì, che tu pronunci anche un po' all'inglese, Pellegrino, che è la montagna che c'è dietro a Palermo, è il promontorio di Palermo, in realtà sta proprio in mezzo alla città. Sì, che separa poi l'aeroporto, se non vado errato, dalla città. No, in realtà Palermo è una conca, quindi è delimitata, è circondata da montagne, poi dal mare, e in mezzo proprio a Palermo c'è questo promontorio che dà anche sul mare. E quindi... Ah, ho capito. Adesso ho capito, sì, qual è. Sì, scusa, sì. Sono passati un po' di anni da quando sono venuto. E come mai hai deciso di dedicare? No? Non lo so, quello è un esperimento un po' di realismo magico. In quel momento leggevo un sacco di letteratura hispanoamericana, diciamo, più che altro quella colombiana o insomma Garcia Marquez, possiamo anche uno, dirlo, sì, insomma. Sì, ma in quel momento anche sì, tante altre cose come Cortázar o Juan Rulfo, uno scrittore messicano che ho scoperto da pochi anni. Sì, insomma, mi piaceva reinventare quel luogo là, la mia città, con un po' come appunto, se vogliamo disturbare García Márquez, come una piccola Macondo in cui ci sono gli abitanti che in qualche modo vedono questa montagna e un po' se ne sentono prigionieri, come se ci fosse questa linea delimitata dall'orizzonte della montagna che è un po' il limite oltre il quale loro non possono andare, quindi si chiedono cosa c'è al di là di questa linea di demarcazione. E quindi che poi insomma ecco è un esperimento giocoso, se vogliamo, però si può leggere in vari livelli anche in maniera un po' più seria, perché un po' è vero che noi siamo un po' chiusi là dentro nel bene e nel male, ecco, quindi. Mentre invece la canzone che ci cantate adesso è ha come titolo un nome di donna. Sì. Miriam. Non vogliamo sapere troppo, insomma. No, è una persona reale Miriam o è un'idealizzazione? Appunto, proprio per questo. Magari si potrebbe pensare che proprio essendo un nome di persona sia una cosa diretta a qualcuno in particolare. No, in verità, come succede in tantissime mie canzoni, io mescolo tante cose, tante esperienze mie, tante esperienze altrui, tante cose che invento e le faccio diventare un'unica cosa sola. A volte sembrano cose inventate, a volte sembrano cose altrui, a volte sembrano cose mie. In questo caso probabilmente, ecco, se ricordo bene, la suggestione principale che mi ha portato a scrivere questa canzone è un po' la stessa delle passanti, no? Quella poesia bellissima di non mi ricordo, è un poeta francese di cui poi Fabrizio De André fece una famosa versione musicata. Quindi l'innamorarsi delle passanti per un minuto, giusto il tempo che tu le vedi passare. Una visione. Esattamente. E poi, e quindi, sì, insomma, è un po' quello. Non sapevo come si chiamava questa donna, quindi le ho dato questo nome e le ho fatto anche il titolo della canzone. Quindi, nome biblico, Miriam. Sì, è un nome che adoro perché esiste, credo veramente, forse non c'è una lingua in cui non esista questo nome, che è legato poi anche al nome Maria, che è la mamma di Gesù Cristo, insomma, ha una certa pesantezza questo nome. C'è anche nell'Antico Testamento, esiste in Africa, esiste veramente dappertutto, con varianti varie, quindi Mariam, tutte queste. Quindi è una. Sì, è un nome che è molto evocativo e quindi lo scelgo per questo. Benissimo, allora ci ascoltiamo dal vivo Miriam da Fabrizio Cammarata qui su Blu Radio Veneto. In my own hometown, practicing faith. 'Cause the sign on the street says tonight is a dead end part of the story I'm in. Oh my, is it all? Thank you. like ribbons on you, a million glasses that toast, but here I am all alone, standing in my cold, in my peace. I hear a sound, names escape from the other room. Somehow it feels like all through this night you're being shy. Will photograph. Oh, I burn like a photograph. You know that love will tear us apart again. You know that love will tear again, you know that love will tear us apart again. You know that love will tear us apart again. Questa era Miriam con un richiamo ai Joy Division. L'hai riconosciuto. Beh, sì, sì, in realtà è una cosa che faccio dal vivo soltanto. Sì, vedo che nel disco, infatti mi ricordo, avevo sentito la canzone e non c'era. Prima hai citato De André, era il primo musicista italiano che hai nominato. È una delle mie più grandi influenze. Ecco. Adesso potrebbe sembrare strano, ma in realtà è così. Ogni tanto vorrei proprio che la gente, chi ascolta musica, non si fermasse semplicemente alla pura apparenza data dalla scelta della lingua, per esempio, ma che andasse un po' più a fondo, e lì scoprirebbe veramente quanto De André c'è nelle mie corde, nelle mie canzoni. Anche lui proveniva da una città che si affaccia sullo stesso mare, che io adoro peraltro, Genova. Dall'altro lato, diciamo, ci guardiamo. Palermo e Genova si guardano in faccia praticamente. Allora, ci ascoltiamo adesso l'ultimo estratto dall'album, che vi ricordo si intitola Rooms, perché poi chiuderemo la trasmissione con un altro brano dal vivo, come nostra abitudine. Questo pezzo è quello che chiude il disco, si intitola High Lake Bay. È un posto che esiste davvero, questa High Lake Bay? No, l'ho inventato, anche questo fa parte dell'insieme di Nina Anne che scrivo io in questo qua. Insomma, qua c'è anche un'altra storia. Insomma, non, spesso scrivo canzoni immaginando di essere qualcosa che non sono mai stato. Mi piace proprio questo meccanismo di immedesimazione che rasenta quasi la schizofrenia. Quindi in questo caso io faccio finta di essere una donna che canta una ninna nanna alla propria bambina. La bambina si addormenta e quindi cantando questa donna può finalmente sfogarsi di alcune delle sue pene più grosse, sono pene d'amore. Mentre la bimba dorme, non può ascoltare, sente magari soltanto nel suo subconscio questa voce che canta e che la rilassa, in realtà c'è una donna che sta piangendo per delle pene d'amore. Bene, High Lake Bay, sempre da Fabrizio Cammarata and The Second Grace. In the town of the High Lake Bay, a woman's waiting for another sign of unrequited love. The last of a long list, I only want my love to come home. Home, home, home, home, home, home, home. Stay be mine, he's so blind, or maybe am I save my tears, I lock him inside, I hope it is enough. When he comes in by the front door, right away he's gone, and you step out looking for his smile. When you ask me where he's gone this time, oily, oily, oily, I wanna lie. In those years of solitude, I was a tear on the face of youth. Then came you, my gratitude, my lily from the sky. Baby, hush, baby, be calm and keep the dreams in your heart just as clean as they are tonight. But give them a high price so only a few can get in, and be kind to your love. Of mine, but if you ask me where my love is gone this time, oily, oily, oily, I wanna lie. Oily, oily, oily, I wanna lie. Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Bene, Rock Wave vi ha regalato un'altra serata con musica dal vivo qui nei nostri studi. La cosa che noi amiamo di più è sempre bello avere dei musicisti qui con noi, poi insomma quando sono musicisti di questo livello naturalmente la cosa ci piace ancora di più. Volevo ricordare a tutti gli amici di Padova e anche magari di zone limitrofe che Fabrizio e Marco suoneranno dal vivo alla Mela di Newton mercoledì. Quindi adesso non ho sotto mano un calendario, comunque oggi è il 12 se non vado errato, quindi mercoledì è il 14. È la Mela di Newton in zona Specola a Padova, quindi avete sentito come sono bravi. Naturalmente il concerto sarà un po' più lungo di quei anche pezzi. Un po' più pieno, abbiamo anche altri strumenti, quindi ecco, sì, chiaramente qui abbiamo diciamo delle limitazioni di spazio e tecniche, per cui si sono limitati alle chitarre, ma ci sono anche tastiere e altre cose. Fabrizio, io naturalmente vi ringrazio moltissimo per essere stati con grazie noi. Grazie a voi di averci grazie. Avuto, è un piacere. È un grande piacere, siete sempre benvenuti quando doveste capitare di nuovo nelle nostre lande, qui al nord, se volete venire in un posto dove piove poco potete... e dove non c'è mai nebbia. Esatto. Tra l'altro fa pure un caldo bestiale, cioè ragazzi siamo partiti da Palermo qualche giorno fa, e faceva freddissimo, pioggia bestia, qua arriviamo qua al nord fra Milano, Bologna e Padova, veramente abbiamo trovato giornate stupende e una temperatura intorno ai 20 gradi, cioè noi che eravamo partiti proprio con mille maglioni e strati vari di... come Totò e Peppino sì, sì, esattamente, siamo quello, noi quando camminiamo in giro per questi posti siamo Totò e Peppino a Milano. Sì, vabbè, insomma è una cosa strana questo, sentire questi cambiamenti, ma... Magari ci puoi scrivere una canzone per il prossimo disco, spero non fra 4 anni, stavolta magari... No, magari cerchiamo, ci sto già lavorando, quindi sono molto più prolifico in questo periodo, quindi sicuramente qualcosa uscirà anche prima. Benissimo, allora chiudiamo questo appuntamento di Rock Wave con l'ultima canzone, che è un pezzo che apriva l'album The Second Grace, il tuo primo, giusto? Sì, ne era anche il primo singolo, insomma il singolo da cui è stato tratto un video molto fortunato, è il singolo che ha girato di più per le radio, che ha avuto anche una sincronizzazione con uno spot pubblicitario, insomma un pezzo che mi sento veramente ancora orgoglioso di avere scritto, perché credo che sia veramente abbastanza... È stata una canzone molto importante, sì, per te chiaramente. Sì, sì, sì, assolutamente, perché credo di essere riuscito a fare una sintesi, diciamo, fra quello che si fa oggi come cantautore, quando decidi di scrivere una canzone, e poi anche il fascino del, non lo so, della musica tradizionale, quella in cui si parla di cose semplici, ma non lo so, un po' come quei brani tradizionali tipo Fishing Blues americani, no? Quindi sì, insomma, quel tipo di feeling là, ecco. E ovviamente ci sono anche molto affezionato per tutto quello che mi ha portato, anche in termini di visibilità e anche di soldi, insomma. Insomma, bisogna anche campare, giustamente. Ma sì, dai. È un'altra canzone che ha un titolo geografico, fra l'altro, è una cosa ricorrente veramente nelle, sì, parecchi tuoi brani. Sì, sì, vabbè, sì. Insomma, non posso nascondere che la più grande passione che io ho, prima ancora della musica, è quella per il viaggio. E quindi tu sei stato a Antananarivo, che è il titolo della canzone? No, non ci sono stato, e quindi è proprio lì il problema. Bene, con questo Antananarivo chiudiamo l'appuntamento del Rock Wave. Abbiamo dal vivo Fabrizio Cammarata e Marco Petrigno. Grazie ancora per essere stati con noi, ragazzi. È stato un grande piacere. Grazie a voi. Just to be there by your side, I would carry roses to all the girls that I've loved and kindly spoken to. I would. I knocked at your door yesterday, and your papa said she left for a brand new place. She wouldn't tell no one, she didn't care for your heart. Your heart, your heart, your heart, your heart, your heart, your heart, your heart, your heart. I read your diary, love, I wanna fly somewhere new, where my heart is, you said, Antananarivo, where I wanna live all my life, my life. My life, my life, my life, my life, my life, my life. And now you're calling me, asking me to come along, fly to your new home, Antananarivo, baby, will you be by my side? No, I won't, I won't, I won't. I won't. just to be there by your side. I would carry roses to all the girls that I've kindly loved and spoken to. I would, I would, I would. Just to be there by your side, just to be there, oh, there by your side. I would, I would.